A bordo campo di Dario Ricci. Il gentil sesso ha trovato il suo acuto definitivo nella Superbike, dove Letizia Marchetti ha messo in riga tutti i colleghi maschi fin dalle prove, ottenendo una bellissima pole con il tempo di 1:59.792. In gara poi Letizia si è confermata totalissima, girando con un passo che le ha permesso di accumulare un vantaggio di oltre 5 secondi sull'avversario più vicino. Moto mondiale ai nastri di partenza, si comincia dal Qatar e sarà anche questa una stagione straordinaria di duelli, spettacolo, emozioni, come forse più della Formula 1, ve lo confesso, a me le gare sulle due ruote piacciono anche un po' di più, le trovo decisamente più emozionanti. E di due ruote parliamo oggi qui a bordo campo con un ospite particolare, perché oltre a dover battere i propri avversari, la nostra ospite, e vi do già un piccolo aiutino nel provare a individuarla, per vincere le sue gare sulle due ruote deve battere ogni giorno anche tanti pregiudizi. E allora benvenuta a bordo campo a Radio 24 a Letizia Marchetti. Ciao, grazie a tutti. Allora, Letizia, 35 anni, del team Crazy Old Man Roma, vincitrice del National Trophy. Beh, si può dire che sei una delle pilote italiane più forti? Le altre si offendono? No, sicuramente non si offendono, anche perché poi facciamo categorie diverse. Io sono in categoria Superbike, quindi sono l'unica, ecco, a partecipare nella categoria estrema. Le altre le troviamo chi in classe 600, credo anche in 125, adesso non ne sono sicura, ma altre ce ne sono che corrono. Sì, insomma, sì. Vi siete un po' sparpagliate, ma quante siete in Italia, Letizia? Poche, veramente poche purtroppo. Eravamo tantissime all'esordio del trofeo femminile che ci fu nel 2004. Eravamo tantissime, poi pian piano ci siamo perse un po' per strada tutte quante e quindi ecco, siamo rimaste veramente poche. Beh, anche perché poi fare attività ad un certo livello diventa anche, costicchia un po', no? Sì, costa un po', sono comunque tanti sacrifici sia a livello fisico che ovviamente economico, insomma, quindi sì, la maggior parte delle ragazze che ha mollato ecco, per una questione soprattutto economica. Tra l'altro, insomma, Viterbese di Civita Castellana, tanto per dare un riferimento chiaro dal punto di vista geografico, ma tu alla moto ci sei arrivato per passione, sì, ma partendo da commercialista, diciamo che la curva l'hai presa un po' larga, eh? Sì, esatto, l'ho presa un po', bravissima, hai detto bene, l'ho presa un po' larga, ho fatto un po' i conti, dai, diciamo, prima di salire ci ho pensato un attimo. Sì, io purtroppo ho iniziato un pochino tardi, ho iniziato all'età di 25 anni, quindi non era proprio nelle mie aspettative quella di fare il pilota, anche perché, insomma, nasco ballerina, poi sono insegnante di fitness in palestra, insegno danza, quindi non era proprio nelle mie aspettative quelle di diventare pilota. E così, quasi un po' per gioco, all'età di 25 anni ho iniziato a cavalcare le due ruote. Caratterino vivace, diciamo così. Sì. Senti, in casa come l'hanno presa? Tu sei fidanzata, sei sposata? Sono sposata e la persona che la prima volta mi ha messo sulle due ruote è proprio mio marito. Ah. È stato mio marito, esatto. Quindi è un po', diciamo, una passione nata dalla mia famiglia, ma la mia vecchia famiglia, invece quella di mia mamma e mio papà, comunque non c'entra nulla, nel senso che loro non erano appassionati di motori, lo sono diventati dopo che io ho iniziato ad andare in moto. Senti, però poi tuo marito non si aspettava che tu andassi così forte, magari adesso rosica pure un po', come si dice alla romana. Ma diciamo che ha rosicato inizialmente, nel senso che quando mi ha messo, diciamo, sulla moto non si aspettava, è così, esatto, che io riuscissi da subito, insomma, ad andare forte, e quindi ci è rimasto un po' male inizialmente. Adesso invece rimane male nel momento in cui io non faccio quello che devo fare in pista. Quindi sì, esatto, quindi mi bastona un po' nel caso, ecco, dovessi, sì, andare un pochino più piano in pista o farmi passare da qualcuno. Si prende la sua rivincita così, insomma. Bravo, è come, esatto, come se mia moglie mi battesse a Subbuteo, ecco, per far capire il grado di agonismo che c'è a casa mia, invece. Ecco. Non potrei sopportarlo. Senti, hanno un po' rosicato, sì, anche quei colleghi maschi che nell'ultima BMW Cup hanno chiesto all'organizzazione, in poche parole, guardate, se c'è la Marchetti che gareggia, noi non veniamo perché quella è troppo forte e non ci va ad arrivare dietro di lei. Ecco, in poche parole è andata così, no? Sì, sì, in sostanza è andata così. Diciamo, è stato proprio uno spiacevole evento quello che è capitato, anche perché insomma dai miei colleghi non me lo sarei mai aspettato, anche perché io sinceramente quando gareggio preferisco anzi piuttosto gareggiare con chi è più forte di me, anche per imparare, insomma, per migliorare me stessa. Quindi sì, è stata veramente una spiacevole conclusione questa, ecco, da ma parte stiamo, dei miei stiamo colleghi. Ancora a questo livello in Italia negli sport motoristici per le donne? Beh, oddio, no, ma non ne faccio, oddio, spero che non sia una questione, ecco, di sesso, non ne faccio questa, anche se diciamo ho saputo che comunque ci sono altri miei colleghi, diciamo, forti abbastanza quanto me, che partecipano a questo trofeo. Comunque ormai è tutto risolto, per carità, ci siamo chiariti anche con l'organizzatore. Però purtroppo, ecco, diciamo che le donne inizialmente hanno dovuto lottare un pochino prima di farsi spazio in questo mondo, e ci siamo riuscite, dai, diciamo che ce la stiamo facendo con molta fatica, perché poi ti ho detto non siamo tantissimi a gareggiare, quindi i ragazzi anche non sono così tanto abituati a vedere una donna in pista. Ecco, ma però ti chiedo, pian piano ci facciamo spazio. Ti chiedo però, ecco, dal punto di vista tecnico, faccio un esempio, per esempio nel basket, dopo molte insistenze da parte delle stesse giocatrici, è stato adottato un pallone leggermente più piccolo per rendere il gioco più spettacolare, ma anche più adeguato, no, alle caratteristiche fisiche. Ecco, pensi che nello sport delle due ruote, ad esempio nel motociclismo, possano essere necessari o potrebbero aiutare anche degli adattamenti come il limite di cilindrata o di peso? No, non credo, perché poi nello sport del motociclismo comunque esistono diverse cilindrate e quindi ovviamente anche ciascun pilota, maschio o femmina che sia, sceglie poi lui la sua cilindrata. Io ad esempio ho scelto la cilindrata più grande, ho scelto di gareggiare con una 1000 in categoria superbike, quindi ancora più estrema rispetto a, diciamo, ad una 600 o rispetto ad una 1000 stock o rispetto ad una 125. Per cui, ecco, non credo sia una questione fisica o diciamo un qualcosa che possa declassare una donna, perché anche un uomo può scegliere se correre in 125, correre in classe 600 o in 1000. Certo, c'è la piena possibilità di scegliersi esatto, la taglia. Il ecco. Basket, bene o male, ecco, la palla è quella e quella è il diametro poi al quale bisogna adattarsi. Di qua invece è un po' diverso, perché hai la possibilità di scegliere te in quale cilindrata andare. C'è anche chi ti sceglie come insegnante di guida sicura a Vallelunga, no? Perché so sì. Che sei impegnata anche in questo sì. Settore, direi che è importante per l'attività di base e per gli appassionati della domenica, no? Sì, esatto. No, qualche molto. Consiglio utile? Io vado in bicicletta, quindi non c'è questo rischio, a me non puoi, diciamo, non posso avvalermi di questa professoressa, però... due, tre indicazioni per essere un attimo più sicuri sulle strade di tutti i giorni, sulle due ruote. Ma guarda, adesso il problema più grande è la troppa disattenzione che si fa. E il problema è che tanta gente va purtroppo sempre di corsa, e quindi è al telefono o con la sigaretta in mano o col volume altissimo. Quindi ecco, tante distrazioni in auto piuttosto che in moto, addirittura anzi sulle moto è ancora più amplificato il problema, anche perché sei sulle due ruote, quindi non ne hai quattro e non sei seduto in un abitacolo. Quindi ecco, io direi più che altro maggiore attenzione almeno quando si è alla guida, oppure ti fermi, fai quello che devi fare, stai al telefono, ascolti la musica, ti fumi una sigaretta, poi riparti, perché poi ecco, il problema più grande è è l'ostacolo improvviso che uno non riesce mai a raggirare o a superare, e quindi lì poi capita l'incidente, insomma. Quindi, insomma, quindi, amici motociclisti, prendete anche la passeggiata della domenica come una prova agonistica da affrontare, sì, col massimo della concentrazione. Fra poche ore, col massimo della concentrazione, troveremo i big del moto mondiale al via della stagione in Qatar. Senti, Letizia, sì, secondo te chi è il grande favorito quest'anno? Sì, assalto al trono di Marc Márquez, il re si confermerà oppure? Io no, oppure no, secondo me io credo che si riconfermerà Márquez, perché per me è un talento. L'anno scorso è stato, diciamo, il suo esordio, tra virgolette, lui ha vinto tutto quello che doveva vincere, ha combattuto per vincere, e abbiamo visto che, nonostante, ecco, è entrato da poco nel mondiale, è il più piccolo e ce l'ha fatta contro tutti i big del momento, insomma, quindi io credo che Márquez terrà duro anche quest'anno. Beh, insomma, direi che ti sei anche sbilanciata, sì, sia nel pronostico sia anche per il tifo, no? Perché so che è il tuo, certo, idolo, quindi insomma. Sì, ma è il mio idolo, anche perché io poi quando vedo le gare del moto mondiale, così come della Superbike, insomma, mi esalto anch'io, quindi mi dà proprio tanta determinazione, tanta grinta. Vederlo correre veramente ti dà un'emozione grandissima. Beh, altrettanta emozione nel vederti cavalcare la tua Superbike. Allora, Letizia, intanto grazie di essere stata nostra ospite. Grazie a bordo a campo, e un grande in bocca al lupo per le prossime sfide in pista, eh? Grazie mille, crepi il lupo, e io ovviamente, ecco, con l'occasione ringrazio come sempre il mio team che ce la mette tutta, il team Crazy Old Man di Roma. Ringrazio ovviamente anche i nostri sponsor, perché senza di loro altrimenti non riusciremo ad andare avanti, e speriamo, dai, di mettercela veramente tutta per arrivare sempre più in alto. A bordo campo. Zero medaglie, questo è il bilancio, ai noi, davvero negativo, della spedizione azzurra a Sochi 2014. Beh, non parliamo delle recentissime Olimpiadi invernali, lo sapete, qualche medagliuccia importante l'abbiamo portata a casa, anche se è mancato l'oro, ma parliamo delle ancora più recenti Paralimpiadi di Sochi, addirittura un bilancio inaspettato, perché insomma è chiaro che a livello invernale la spedizione azzurra è meno ampia e meno forse qualificata di quella che è la realtà dello sport paralimpico estivo, ma insomma addirittura tornare senza medaglie è stato un po' uno shock per il nostro movimento paralimpico. Di questo vogliamo parlare oggi, perché queste Paralimpiadi, non solo dal punto di vista sportivo, sono passate un po' in sordina anche sui grandi media nazionali e internazionali. Abbiamo intervistato proprio una protagonista di Sochi 2014, la nostra campionessa dello sci alpino paralimpico, Melania Corradini, che non è riuscita, appunto, neanche lei, malgrado i pronostici della vigilia e purtroppo anche un infortunio che l'ha condizionata proprio a pochi giorni dal via delle Paralimpiadi di Sochi, a portare indietro una medaglia da quelle nevi russe. Allora, sentiamo cosa ci ha detto proprio Melania Corradini a proposito delle sue prestazioni e anche dell'intera spedizione azzurra. Beh, certo, io lo sapevo prima di arrivare lì, diciamo che ero consapevole delle mie possibilità, ho voluto provarci lo stesso, però non ci sono riuscita. Non ci siamo riusciti un po' tutti, abbiamo fatto veramente un disastro, adesso siamo tornati e penseremo al futuro. Provando ad analizzare il risultato complessivo della spedizione, zero medaglie, davvero uno zero in condotta che non ci aspettavamo dal nostro movimento paralimpico, quali spiegazioni puoi dare, quali ragioni ti sei dato? Ma io, per scherzare, in cerimonia di chiusura andavo in giro e dicevo zero titoli, no? Ci serve un Mourinho della situazione. Beh, abbiamo peccato un po' di sfortuna sicuramente, però anche di troppa convinzione di essere pronti, e non eravamo così pronti. Purtroppo ci mancano giovani leve, ci manca un po' tante cose, e quindi è andata così. Adesso dovremo guardare al futuro, appunto, speriamo che questo ci abbia aiutato per il fatto di poter e coinvolgere nuove persone per gli anni futuri. Partendo da questa esperienza, dalla tua esperienza di campionessa paralimpica, Quali possono essere le linee guida da seguire in futuro per essere competitivi con altri paesi che hanno una cultura paralimpica più forte e che su questo solco sono anche riusciti a progredire? Beh, sicuramente nello sci alpino sono tutti quasi professionisti, no, da noi, quindi ci manca un po' quello. In Italia cioè, manca ancora un po' questa concezione sul siamo un po' tutti dilettanti, no? E secondo me partendo così, trovando un po' di più soldi in più, potremmo ricostruire una bella squadra. Il riflesso sull'attività di base di questo zero nel medagliere quale può essere? Ah, secondo me non sarà così rilevante, non sempre si può vincere, quindi noi proveremo a guardare avanti, l'anno prossimo ci sono i mondiali e quindi le gare continuano. Ebbene, speriamo di rifarci presto, questa è l'analisi puntuale, lucida di Melania Corradini, la commentiamo insieme a un amico di A Bordo Campo di Radio 24 e anche quello che è il maggiore esperto italiano e non solo di sport paralimpico, ben ritrovato Claudio Arrigoni. Eccoci Dario, eccoci, mi fa sempre piacere essere a Radio 24 perché è una delle mie case, quindi sono onorato di essere con te. Beh, per te la porta è sempre aperta. Beh, Claudio, innanzitutto partiamo da un elemento, analizzare una Paralimpiade dal punto di vista sportivo, esclusivamente sportivo, già è un bel risultato, no? Senza quell'allure di pietismo, vittimismo, eccetera, eccetera, che spesso a queste latitudini connota ancora lo sport paralimpico. Ah, guarda, come immaginarselo solamente 15 anni fa o 20 anni fa. Questi sono i grandi passi avanti che ha fatto il movimento paralimpico. Io ricordo la mia prima Paralimpiade, purtroppo, ne sono passate 10, però ecco, a Barcellona 92, quando io sono andato per la Gazzetta dello Sport alla mia prima Paralimpiade, lì ho detto, parlavo dello sport paralimpico e bisognava usare la parola handicappati, perché sennò la gente non capiva, ecco, quindi questo per dire un po' com'è cambiato il mondo. Eh sì, lo sentiamo, campane a festa tra l'altro a questa tua affermazione. Quindi insomma di sport paralimpico si può anche sorridere. Claudio, però risultati estremamente negativi, non possiamo nascondercelo, nessuno si aspettava un'Italia con zero titoli, come ha detto scherzosamente Melania Corradini. In sintesi, perché? Ha detto Melania giustamente, il fatto comunque che lo sport paralimpico e soprattutto lo sport paralimpico invernale ha delle difficoltà oggettive che sono date dai costi, quindi questo è sicuramente uno dei problemi. C'è un problema di promozione, perché indubbiamente è difficile per una persona con disabilità investire sullo sport paralimpico invernale, in particolare nello sci alpino e nello sci di fondo. Quindi le cose che ha detto Luca Pancalli alla fine della Paralimpiade, chiedendo la possibilità di avere un dialogo anche con la politica per avere degli sgravi fiscali per le società, per le famiglie che vogliono far provare ai ragazzi, alle ragazze a fare sport, questo credo sia un primo passo. Un secondo passo è naturalmente andare a lavorare nei posti dove sono le persone con disabilità, stiamo parlando delle unità spinali, dei centri di riabilitazione, delle scuole anche, quindi c'è un lavoro da fare che già si sta facendo, però probabilmente va incrementato. Direi Claudio che sono state purtroppo anche Paralimpiadi passate in sordina anche sui grandi media, no? Tanto ci si era prodigati per Vancouver 2010, per la stessa Londra 2012 nell'edizione estiva, quanto queste di Sochi, pur ben organizzate, molto ben organizzate sul campo, non si sono viste in TV. Come mai? Ecco, che cosa è cambiato? Beh no, la TV l'è seguita, perché poi Rai, devo dire, ha fatto 120 ore di diretta, che è il massimo per quanto riguarda una televisione dopo quella russa. Quindi quello sì, il problema un po' sono stati gli orari, chiaramente, perché era mattina molto presto, comunque la mattina poco da poco iniziata. E è mancata la stampa, questa hai ragione, è mancata la stampa. Però guarda, io la leggo anche forse un po' in positivo questo. È vero che lì c'erano delle storie straordinarie da raccontare, io ne avevo raccontata qualcuna sul Corriere della Sera e mi sono divertito a farlo, ma ma ce n'erano mille altre. Ma dall'altra parte perché la vedo in positivo? Perché se sono mancate le medaglie c'era poco da raccontare e vuol dire equiparare lo sport olimpico allo sport paralimpico nella stessa maniera, cioè abbiamo poco da raccontare se non c'è chi vince. Vediamola in positivo, dall'altra parte devo dire è talmente bella una Paralimpiade, tu hai detto è stata organizzata benissimo, io penso la più bella Paralimpiade invernale della storia, ecco, forse sulla più bella Paralimpiade invernale della storia qualcosa in più si poteva raccontare. Però ecco, interessante questa chiave di lettura, nel senso che ormai forse questo concetto del paralimpismo è così assimilato che quasi non vogliamo sapere le storie di questi atleti, ma vogliamo sapere come finisce la gara, no? Che sì, per il mondo paralimpico e forse anche per noi è una grande conquista. Senti, facciamo un altro passo avanti, c'è tanto da lavorare però per estendere la base dei praticanti, lo dicevamo, e anche per migliorare la qualità di strutture, collegamenti con le scuole, insomma l'Italia come sistema paese fa fatica anche nello sport paralimpico, no? Sarebbe difficile da pensare il contrario. Nel collegamento con le istituzioni, con le realtà anche politiche, cosa si può fare, Claudio? Beh, prima di tutto bisogna cercare di far capire a quei luoghi dove la disabilità è evidente, e qui vado, ritorno a, appunto, alle unità di riabilitazione, ai centri spinali, anche agli ospedali, eccetera. Bisogna far capire che una persona con disabilità che fa sport è una persona recuperata alla società. Lo dico molto tranquillamente perché, avendo frequentato questo mondo, posso dirlo. Ecco, questa è la cosa più importante, perché vuol dire che, facciamo solo il conto degli incidenti stradali, fra le 3 e le 5.000 persone all'anno diventano disabili solo per quello, solo per quel motivo lì, poi ci sono tutti gli altri. Perché questi non vengono introdotti allo sport? Faccio un piccolo esempio. Gli Stati Uniti hanno diverse guerre in giro per il mondo, purtroppo. Bene, tutti i veterani di guerra che tornano con disabilità dalle vari posti del mondo, la prima cosa che fanno fare a loro è: guardate questi 20 sport, ok, provateli tutti, sceglietene uno. Alla Paralimpiade invernale di Sochi, la maggior parte degli atleti di punta della nazionale paralimpica statunitense aveva disabilità data dalla guerra e aveva iniziato a fare sport. Questo per dire, devi investire su quello. Investendo su quello, non solo porti dei grandi campioni che sono ad esempio agli altri, ma recuperi persone alla società. Assolutamente d'accordo. Tra l'altro ti richiameremo presto in causa qui a Bordocampo, Claudio, perché ci abbiamo da commentare anche l'accordo fatto proprio dal Comitato Paralimpico col nostro Ministero della Difesa, che va in questa direzione, e dovremo anche poi parlare, visto che il paralimpismo sta sempre più diventando come l'olimpismo, ai noi anche delle evoluzioni del tema doping. Quindi Claudio Arrigoni, intanto grazie per averci aiutato a leggere questo zero in pagella che abbiamo ottenuto a Sochi 2014, da migliorare rapidissimamente, e a prestissimo ancora qui a Bordocampo, Claudio. Sapete che è sempre un piacere. Anche per questo appuntamento con A Bordo Campo è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it, riascoltarci sul nostro sito web www.radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scaricare sempre da radio24.it anche il podcast di A Bordo Campo. Ora spazio a tutti i convocati, weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.15. Una buona giornata da Dario Ricci.